Allora, altre voci dal corteo, pronto, mi senti? Sì, mi sento, allora. Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo forte e chiaro. Allora, raccontaci un po' com'è la situazione, ci hanno già detto alcuni compagni che erano lì, com'è la situazione sul campo, ma raccontaci anche un po' qual è il clima, quali sono gli slogan, la composizione un po' di questo assedio. Allora, siamo qua davanti, non so cosa vi hanno detto prima, ma siamo appunto nei pressi di Via della Stamperia, dove si riuniva la conferenza regioni, stati e comuni, governo e comuni, e siamo qui perché vogliamo passare, vogliamo arrivare davanti Via della Stamperia, ma non ci fanno passare e quindi stiamo assediando praticamente il blocco che è stato fatto. E qua sono tutti determinati, siamo come Movimento Lotta per la Casa, studenti e tutti i precari e le precarie che sono qui per manifestare non solo ovviamente contro questa conferenza, ma in generale contro il governo, soprattutto per dare una continuità a quello che è il percorso del 19, quello che è stata la piazza del 19, perché abbiamo sempre detto che era un inizio e quindi siamo in piazza anche oggi. Abbiamo detto appunto ai megafoni che vogliamo passare, rimarremo qua e continueremo insomma a essere determinati nel voler passare in corteo. Non possono infatti impedirci di manifestare, c'è tanta rabbia. Invito anche tutte e tutte le persone che sono rimaste a casa e se sono arrabbiate quanto noi di scendere in piazza, di continuare a manifestare insieme. Questo insomma è quando siamo fermi qui e come potete sentire c'è un bello spirito, stiamo cantando tutto il tempo e insomma questo è quanto rispetto agli aggiornamenti. Bene, allora invitiamo i compagni a raggiungere la manifestazione, intanto ti ringrazio, poi eventualmente ci risentiamo. Grazie, ciao. Ciao, ciao.